La camorra uccide chi fa luce sui suoi affari. Col silenzio della morte i casalesi hanno zittito l'imprenditore che stava svelando intrecci e interessi tra malavita e politica nello smaltimento dei rifiuti. Era senza scorta Michele Ursi, l'hanno ammazzato sotto casa a Casal di Principe, fortino dei casalesi. 47 anni, imprenditore, era uno dei titolari della società Eco 4, già braccio operativo del consorzio CE4, impegnata nella raccolta dell'immondizia in 18 comuni del Casertano, un appalto nel quale, secondo la Guardia di Finanza, si era insinuata la mano della malavita, i casalesi del boss Bidognetti da una parte e la torre di Mondragone dall'altra. E dopo l'arresto Orsi aveva cominciato a raccontare ai magistrati questa commistione tra politica e camorra. Nei giorni scorsi aveva testimoniato in un processo, giovedì sarebbe tornato in tribunale, ma i sicari non gliel'hanno permesso, facendolo cadere in un agguato, dopo avergli mandato più avvertimenti, del difensore. Nelle ultime settimane i casalesi hanno ucciso l'imprenditore Domenico Noviello, il padre del pentito Domenico Bidognetti e ferito la nipote di Anna Carrino, collaboratrice di giustizia. Vendette per imporre il proprio silenzio. Raffaella Calandra, GR24, Sole 24 Ore.